Ci sei? Natalino, c'è qualcuno sul 10? Chi è avanti? Ciao Natalì, ti stavo chiamando, non mi hai ascoltato. Ehi, non ero qua, sono arrivato adesso. Ah, ho capito. Più vedo di sta da voi. Non lo so perché non sono uscito di... Piovendo sta con te. Sta piovendo, dai. Qua sta piovendo, per cui anche lì sicuramente. Adesso di sì, mi si è affacciato, io non sono uscito per quello che non lo sapevo. Nemmeno io sono uscito, ma già si vede dalle finestre quando piove, no? Vabbè, ma io non mi sono manco avvicinato a Rubacone. È per quello. Allora, adesso ti ha bagnato l'antenna. Vedomi. Che sola. Adesso te la sciogliere. Che io ia. Almeno mi togli un po' di polvere che ci sarà. No, non le attacca polvere lì. Ui. A quel materiale polvere non le attacca. Perlomeno io quando l'avevo tirata giù no, era pulitissima. Mica, fatto scherzando, no? Ok, come va la frequenza? Peggio che mai. Ma sulla terra inteso, finta là. Sono una settimana io senza sentire nessuno, figurate un poco. Sì, io un po'. Lo stesso non è che stia entrando, perché non mi sento bene in questi giorni. Ah, ho capito, cos'è il problema che ti sei preso? No, altre cose, insomma. Un dolore ciò che mi... È un dolore, ma io non ho capito dove hai detto, perché c'era la scarica. Io ho capito. Ma andare, cosa vuoi ti dire? No, anda male, quando per un dolore anda male. Ehi, a Rusogo. Che c'è il caccadraio? Vabbè, comunque, curati, così poi stai bene, puoi anche ballare. Ehi, capa da bisogna mi poter abbricciare anche i nubi. Ehi, non sarà così, no, capita, addirittura. Sì, pure in cui va. Vabbè, ma e poi cosa ti aveva detto il dottore? Te la cura, cosa deve fare? Devi fare qualche intervento? Cosa deve fare questa gamba? Si può intervenire, se prima non intervengono per quell'altra cosa che ho, se no si blocca e non mi possono fare niente per la gamba, capito? Bisogna prima intervenire su un'altra cosa, così non blocco l'accesso. Ah, ho capito. Ho capito, vabbè, però mai si inizia e mai si finisce io. Che ti utole, se vuoi si dà anche buca. Poi, se non so operare manco una ricatarate, che mi hanno trovato anche le catarate e mi devo operare anche lì. Faccio prima, così mi si dà il monte, faccio prima. Qua. No, io sono mai, quello mai, si mancherebbe altro. Vabbè, appuntamento non hai preso niente, vabbè, quello lì, devi prendere l'appuntamento, senta, perché se no, a maggio mai mi. Già lo so, purtroppo posti non ce n'è, e quindi non si può fare nulla giù. addirittura sono andato all'INAM a farmi la visita oculistica, uno mi ha detto una cosa, sono andato a pagamento e me ne hanno detto un'altra, e in più mi hanno detto che non so operendi e non mi posso operare alle cataratte, capito? Perché gli occhiali non ne ho bisogno, perché ho le cataratte e non vedo. Quello è infatti il problema, è quello, Natale, la cataratta, hai ragione. Ma devi tentare, guarda, al policlinico devi tentare, perché se non senti tutti i giorni, telefono tutti i giorni per cercare l'appuntamento, ma che se intanto c'è sempre qualcuno che magari ci rinuncia e allora il posto è libero, sei fortunato e te lo puoi prendere. Non mi possono mettere in lista che non stanno operando, adesso a tornare fra 6-8 mesi che vede un po' se si è ripresa la situazione, perché mi deve mettere in lista per potermi operare, hai capito? Allora devi tentare Ottieri, allora tenta Ottieri, allora che c'è la dottoressa brava, tenta allora lì all'ospedale di Ottieri, Natale. È l'oculista che mi ha detto così, per mettermi in lista bisogna che stiano operando, si sono bloccati. Se no 1.100 euro a occhio e te lo fanno subito, in pochi giorni. Ma non so operendi, inutili a dirla giù, non stanno operando. Marco, rivenga fra 6-8 mesi e così vedo se la posso mettere in lista, perché sono loro gli oculisti che ti mettono in lista, non so, operendi, di Siena è a Cagliari e non può far nulla, compreso, bisogna che si mettano a posto qua, una volta che stanno operando allora mi mette in lista, devono smaltire ancora quelli che hanno. Guarda che ci sono gli ambulatori privati che fanno questi lavori, c'è sempre la pubblicità anche sul telefonino, addirittura se tu guardi anche sul telefonino, sì, ti mandano la pubblicità tante volte, compreso il tutto, 1.100 euro, 1.200 euro, naturalmente ambulatori privati sono quelli, non ospedale. Non mi avrebbe operato questa qui, se questa qui è a Cagliari vuol dire che non mi può operare ambulatoriamente. La sanità è andando sempre il peggio, è andando questa sanità, non è possibile. Se te lo sto dicendo, meglio è a Cagliari, in Oggi non può fare niente, solo in Cagliari può fare che cosa, ma in Oggi no. Poi c'è l'ambulatorio qua, non mi avrebbe operato lì. Cosa vuoi dire? Mia moglie l'ha fatto, un occhio l'ha fatto al policlinico e l'altro invece l'ha fatto al Alghero, perché ha trovato il posto al Alghero, ma sono già passati 4 mesi più o meno, 3-4 mesi da l'ultimo che ha fatto, e sono bravissimi anche al Alghero, non c'è problema. Chiaro gioco, ma si sono bloccati, si non so operendi. Dice che prima devono smaltire la lista che hanno già, perché non sanno, hanno smesso di operare. Non si sa fa cosa. Perché vogliono risparmiare, perché la sanità vuole risparmiare, ecco cosa fa cosa. Poi c'è anche un po' di agitazione tra i medici che vogliono tante cose, vogliono aumento soprattutto. Infatti se ne sono andati all'estero, se ne stanno andando certi medici, e poi magari quando hanno bisogno loro vengono in Italia a curarsi, però prima se ne sono andati all'estero, perché le pagano a 20.000 euro al mese, a differenza di qua che le danno poco a confronto con lo stipendio che prendono ad esempio tipo in Arabia, dai. Non ho bisogno di dottori, di farsi. Paghissu, a chi se ne sono fuggiti? Perché stanno diventando un pochino l'Italia è il mondo, è il re con i soldi, stanno comprando tutto. Arriva il giorno che pensa che si muore il gigante a faccia a terra in Arabia, ma dai, così per lo sport, per il calcio, tutti i giocatori italiani, tutti in Kiwi, o meglio tutti quei giocatori europei, tutti a prendere un sacco di soldi. Più di uno magari si sta stancando e vuole anche ritornare di nuovo l'Italia, nonostante i grandi stipendi, perché siamo proprio degli di stipendi non meno di 20.000 euro al mese. E cosa vuoi ti di ghiaccio? Adesso fra 6 mesi vado, torna Baku, così mi controlla, torna alla vita e vede se mi può mettere in lista, perché se no bloccano questa questione, non si può fare nulla, tanto ho già altre cose da fare prima. Non è possibile. Per dire, in ospedale ho sentito che non vedi altro che gente straniera, appena che arrivano subito li fanno entrare, arrivano i sassaresi, boh, è rimasto la giornata intera lì aspettando per controllarli, per curarli, per fare il dai. Purtroppo non ha precedenti, ho anche da farmi togliere una cosa che c'ho vicino all'occhio, ci vuole un chirurgo. Adesso lo dico a questa amica nostra, se me lo fa lì ambulatoriamente è un taglietto. Ma cosa vuoi dire? È una vagogna, è diventata una vagogna la sanità italiana. Vabbè, speriamo che si riprenda come si deve, perché così, continuando così, la storia diventa molto, molto critica. Sì, infatti. Cosa vuoi che ti dica? Ah, vedi musica, mi rubati, ero manco visto. Senta, se lo può fare, può darsi che te possa fare lì, visto che conosce questa persona. Non so cosa dirti. Prova, la riprova. Bisogna sentarle tutte. E anche perché se ne sta andando anche lì, da qua. Boh. E se ne deve andare a Milano, boh, non so cosa dirti. Adesso vediamo se me lo fa e se no cosa vuoi che ti dica, non so cosa dirti. Speriamo bene allora, speriamo che si metta la mano sulla coscienza e se la bocca ed. Ho visto che se lo può fare, prova a chiederglielo. Sì, vabbè, vediamo un po' fa. Cosa vuoi ti dire? So che pesci prendere. Ma devo farmi pure tutti l'analisi di Susangu, a chi devo vedere la cardiologa e la diabetologa. E ho altre 2 visite da fare. Ma qua sto cominciando a stancarmi. Alla fine non faccio più nulla. Quello non si deve dire, non faccio più nulla, ma forse devi curare. Capita, non è che puoi stare così, no? Con la cura, con la prevenzione tiri avanti. Se sei la cura, stai male e basta, e allora sai come ti funziona. Man mano che passa il tempo, uno se non si cura è sempre figlio. Per cui ti devi per forza curare la maragana, se vuoi stare bene. Se no, ciccia. Ma sono stanco, guarda, ne sono stanco di queste cose. Basta. Alla fine io sono fatto così. Natalia, purtroppo siamo in mani poco umani, si può dire, in mani poco umani, visto considerato come sta finendo la sanità qua. Non è possibile. E domani se ne cavano i luci per il fatto dei butti. Se ne mandano in bocca di avvisi sul telefonino e sulla cassettina delle lettere, il monologo di bambino per cercare il voto. Secondo commento anda mancubando io a buttare, figurati, tanto me ne ha fuzzi di rotto. Vabbè, io sono Muriel Viro, anche se si dovrebbe andare, però tutto sommato se uno poi non se la sente, se domani in casa, soprattutto se piove, perché tanto pioverà anche domani. Adesso vedremo, cosa vuoi che ti dica? Io non lo so, ma già mi farò una stoppatina, tanto non mi conta niente, non è molto lontano da qui da dove sono io, saranno 400 metri, 500 metri, non di più, forse di meno, per cui una stoppatina me la posso fare, non c'è problema. Sì, secondo che a tempo parte, sicuramente io già andavo vicino a casa di Franco a buttare, non ci vado neanche. Ma chi tocca pigliare la macchina, mi infondo, boh, no, si fa il tempo umano, no, non esco manco di casa domani, poi non mi sento bene, non è lui. Se non stai bene, rimani te ne riguardato così allo manco sarai meglio, perché è visto di uscire, se uno non sta bene, magari col freddo e soprattutto se piove, qualcuno si è sentito ieri sera, io non ho sentito nessuno, ho controllato un paio di volte, ho acceso un paio di volte, no, silenzio assoluto, non c'era nessuno. E io la verità non ci sono mai entrato ieri. E infatti ti ho anche chiamato, e dunque non hai risposto, vuol dire che non ci... Ho chiamato anche a Luca, anche lui, niente da fare, non ha risposto nessuno. Ho chiamato stamattina, peggio che mai, e vabbè, pazienza. Stiamo guardando su USBSDR stamani, da Roma, c'era una greffa, c'è da parlare, una greffa dei maleducati. Hanno cominciato a dire parolacce, allora ho subito staccato dal computer. Non ha giunto cosa, non ha giunto staccato. Sono tutti una manica di maleducati, pucci, tutti romani. Figuriamoci. Va bene, Giulio, ci sentiamo alle prossime, che non ho voglia. Non ha giovane manco di Pavidano solo là. Ci sentiamo alle prossime, là. Bravo, ciao, ciao Natalia, alle prossime, ciao. Ciao. Ciao Natalia, ciao. Ciao, a tu, tu sei? Tu ne so. Ciao a tu. Cosa gli ho saputo della storia? Mi dispiace. Così improvvisamente. Purtroppo non torna a vivere. Io ho acceso così adesso. Davvero un po'. Purtroppo la vita è crudele, cosa vuoi fare? In questi casi c'è poco da fare. C'è solo da subire e basta. Comunque la vita deve continuare, va avanti. Ok, sono entrato così, sono entrato, non ho molta voglia, giusto per accendere, adesso iniziamo a battuto, dai dai, ci sentiamo, ciao ciao. Ciao ciao tu, ciao ciao, stammi bene, ciao. Vabbè, ciao ciao.